Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Il cucuzzolo della montagna con la neve alta così, per la valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci sci. Dal cucuzzolo della montagna su un cielo tinto col blu, con in testa un passo montagna scenderemo sempre più in giù. Allora, cuore e denari ad alta quota questa mattina per l'apertura della nostra puntata del 4 gennaio. Bentornati intanto, in diretta con voi fino alle 12 e continua a rimanere da sola, ma la Nicoletta naturalmente intanto ci ascolta e noi la salutiamo. E poi ritornerà prestissimo tra di noi appunto a partire da lunedì. Ho una breaking news di pochi minuti fa, è attesa nelle prossime ore la prima nevicata della stagione in Alto Adige. Nulla di strano, ma in questo inverno è comunque una notizia, ha commentato su Facebook il meteorologo provinciale Dieter Petterlin annunciando i primi fiocchi sul Brennero. Sono ben contenta per tutti gli appassionati, lo sanno anche Sassi che io non scio, che preferisco di gran lunga il mare, il sole e la spiaggia, però insomma siamo ben contenti per l'industria di settore che naturalmente sta soffrendo per le condizioni climatiche di quest'anno. Deve sparare neve ovunque, non c'è quella naturale, quindi è un bel problema. E in questo inverno non proprio ricco di neve sono invece le storie di denari che fanno parlare. In questo caso ci dobbiamo spostare in Valle d'Aosta. Il giornalista di Sky Sport Guido Meda, che peraltro è stato ospite anche molto di frequente nei nostri programmi sportivi, a tutti convocati e non solo, il giorno di Capodanno, pure lui utilizzando un post su Facebook, ha scritto dichiarando di essersi sentito un bel bancomat ambulante su gambe, rivolgendosi proprio agli amici valdostani, uno sfogo che ha avuto una grande eco non tra i monti ma sui social. Monti a lamentarsi di un servizio non sempre all'altezza dei prezzi salatissimi e non senza però qualche luogo comune che, come sappiamo, in questi casi ci mette poco ad essere amplificato. Questa storia di Meda ci ricorda un po' la storia che viene anche ricorrentemente raccontata dai giornali, quella che capita al solito turista giapponese malcapitato magari o romano in altri, o a Venezia o a Milano appunto, dove naturalmente per essere servito di un caffè magari un bicchiere d'acqua deve sempre pagare chissà quanto, e questo non è che capiti sempre in alta stagione, insomma magari qualche malcapitato turista che non conosce bene le dinamiche italiane gli succede insomma questo anche in altri momenti dell'anno. Meda, da quello che abbiamo letto, ha poi cercato di ricucire pubblicando una foto in cui si è riappacificato con la proprietaria del ristorante con la quale aveva avuto da ridire, ma insomma è stata una notizia che è stata, ribadisco appunto, molto amplificata da tutti i media. Allora, anche a noi piace coinvolgere i nostri ascoltatori su questi fatti. 800 24 00 24, se volete come sempre essere i nostri inviati sui fatti del giorno. Diteci anche voi se avete avuto modo di trascorrere qualche giornata nelle località turistiche di montagna, se vi siete sentiti trattati come bancomat ad alta quota o se invece, come capita sempre, diciamo che quello che è capitato a Meda non è certamente come dire quello che capita sempre naturalmente, se invece avete trovato un'accoglienza che vi ha scaldato il cuore. Qual è la vostra esperienza? Sono sicura che potrete raccontarci anche delle storie positive. Intanto partiamo con la nostra rassegna stampa di oggi. Allora, borse contrastate in Europa questa mattina, ancora un rialzo per Piazza Affari più 0,17%, mentre leggermente negative sono Parigi e Francoforte, ma anche Londra sono attorno alla parità, insomma fanno fatica a tenerla. Quadro misto stamattina in Asia, Nikkei più 2,51%, a Tokyo il listino giapponese recupera le due prime giornate dell'anno in cui era stato chiuso appunto per festività, e si rimette in linea con le altre piazze europee. Ieri è chiuso positivamente anche Wall Street, aspettavamo con trepidazione che il Dow Jones toccasse il suo record storico dei 20.000 punti mancato, vedremo se ci si riuscirà appunto ad arrivare a questo livello in questa prima settimana del 2017. Milano più 0,12% sul FTSE MIB, i titoli che corrono. Salvatore Ferragamo più 2,59%, il titolo sta andando molto bene da diversi giorni, ha avuto una raccomandazione positiva da parte degli analisti di HSBC, e poi il mercato sta continuando a premiare questo accordo siglato con l'Agenzia delle Entrate per i termini della cosiddetta patent box, che in qualche maniera maniera disciplina appunto tutti i diritti di proprietà intellettuale. UbiBanca più 2,45 continua a correre il banco BPM, da tre giorni assolutamente protagonista della seduta, e la banca nata dall'integrazione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano, anche oggi più 2,31%. Italgas più 1,76, Intesa San Paolo più 1,48. In negativo invece abbiamo i titoli petroliferi. Saipem meno 1,31% per il petrolio, che è ritornato a scendere dopo aver toccato il top dal 2005 nella seduta di ieri, $58 a Londra, $55 a New York, e poi nel corso della giornata rapidamente ridimensionate queste quotazioni. Peraltro di petrolio parleremo tra poco, perché gli effetti alla pompa di benzina si sono già subito sentiti in Italia, lo commenteremo tra un po' questo fatto. Abbiamo tra i peggiori titoli Saipem, scusate, STM meno 2, ST Microelectronics. Il gruppo perdeva in avvio 6 punti percentuali, banalmente perché una grande banca d'affari, Morgan Stanley, ha detto rally finito per il gruppo, che aveva toccato il suo top dal 2008 a fine dicembre. E oggi dunque arriva questa frenata, che però adesso è ridimensionata al 2%. Male anche Luxottica, Exor stanno perdendo circa un punto percentuale. Oggi frena dello 0,8% anche Fiat Chrysler, che è protagonista al CES di Las Vegas, al Consumer Electronics Show, dove ha presentato il prototipo di minivan elettrico, il Chrysler Portal, e ne parleremo peraltro stasera a Focus Economia. L'euro a 1,0444 sul dollaro, e queste sono per oggi, almeno fino a questo momento, le notizie di borsa. È scaduto ieri 3 gennaio il termine per presentare la domanda per il rimborso forfè dell'80% delle obbligazioni subordinate delle 4 banche azzerate con il salvataggio del novembre del 2015. Al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che gestisce il Fondo di Solidarietà per indennizzare i risparmiatori delle vecchie banche Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti, sono pervenute circa 14.000 pratiche, considerando anche i numerosi casi di contestazioni, acquisti multipli o successioni. Al 30 dicembre ne sono state liquidate 2.648 per circa 35 milioni di euro, circa il 90% dei rimborsi è sotto i 20.000 euro. Vi preannuncio già che noi ci torneremo domani su questo tema con il nostro appuntamento del giovedì di Investire Informati. Allora, ieri abbiamo parlato degli aumenti dei pedaggi autostradali su alcune tratte. Abbiamo già preannunciato, probabilmente in una puntata di dicembre, che il 2017 sarebbe stato di nuovo un anno di ritorno ad un aumento dell'RC Auto, e quindi si preannunciano tempi un po' complicati per tutti gli automobilisti italiani. E ci mettiamo anche la notizia degli ultimi giorni, relativa al fatto che le quotazioni appunto internazionali del prezzo del petrolio stanno tornando a risalire, per certi versi una buona notizia, segno che stanno provandosi a rimettersi in equilibrio appunto i rapporti tra domanda ed offerta. Ma come sapete, poi quando scattano questi aumenti delle quotazioni internazionali, c'è un effetto che è soprattutto evidente in Italia, questi aumenti si trasmettono immediatamente alla pompa di benzina, e allora questo è il tema che approfondiamo in questa prima parte di Cuore e Denari, perché naturalmente sono già partite le lamentele, anzi delle denunce molto forti da parte delle associazioni dei consumatori, che già appunto dicono benzina e gasolio decisamente più cari dello scorso anno. Allora, abbiamo voluto interpellare questa mattina i gestori dei distributori di benzina. Martino Landi, presidente della FAIB Confesercenti, buongiorno, benvenuto e buon anno intanto. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e agli ascoltatori. Allora, intanto naturalmente vorrei anche chiedere la collaborazione dei nostri ascoltatori all'800240024. Avete già percepito un aumento dei carburanti rispetto alla fine di dicembre, in questo inizio appunto di gennaio? Quanto vi costa in più un pieno di benzina? Diventate anche per questo argomento i nostri inviati e segnalateci da dove ci ascoltate che tipo di differenze state notando appunto rispetto all'anno nuovo. Se volete, ci potete anche scrivere il 349-238-6666, sempre il vostro numero, inviandoci naturalmente SMS o WhatsApp, preferite, potete utilizzare appunto il canale che preferite. Allora, Stavo dando un'occhiata questa mattina agli aggiornamenti di Staffetta Energia, del quotidiano appunto Energia, rispetto ai movimenti registrati appunto sui carburanti nelle ultime ore. Tutte le grandi compagnie stanno correggendo all'insù i prezzi raccomandati di benzina e diesel, pochi centesimi naturalmente, ma comunque gli effetti si vedono già. Allora Landi, ci può fare lei una fotografia della situazione quest'anno, come si sta aprendo? Siete tra virgolette un po' preoccupati o tutto nella norma rispetto a questo aumento delle quotazioni internazionali di greggio, per le modalità con cui poi si trasmettono ovviamente sulla vostra attività? Ma sicuramente siamo preoccupati, perché le quotazioni che man mano, giorno dopo giorno, stanno aumentando, io parlo della quotazione del greggio, quindi di fatto poi questo si trasmette su un aumento dei carburanti alla pompa. Diciamo che quello che sta succedendo oggi era scontato, perché noi veniamo da un anno, il 2015, dove la quotazione era molto bassa. Se ci ricorderemo che all'inizio 2015 il greggio veniva quotato intorno a $30 al barile, quindi oggi che siamo a 55-58, sicuramente ha creato le condizioni per un aumento del prodotto alla pompa. Abbiamo subito, come dire, una congiuntura favorevole nel 2015, che eravamo consapevoli che così non potesse durare, non potesse continuare. Certo, certo. Quindi diciamo era previsto un aumento delle quotazioni, augurandoci che questo aumento non vada oltre queste soglie, perché altrimenti comincia a essere poi anche insostenibile per l'economia e per le tasche dei consumatori questo fatto. Non solo per i consumatori, ma noi siamo preoccupati quanto i consumatori, perché i gestori non usufruiscono di questa congiuntura. Noi abbiamo dei margini legati al litro e non legati al prezzo. Perché quindi abbiamo già detto, certo, no, mille volte, lo ribadisco per quegli ascoltatori che magari questo tema non lo seguono particolarmente in maniera particolarmente attenta, e che appunto su un litro di benzina c'è il peso delle accise, che rappresenta qualcosa come il 70% rispetto appunto al prezzo finale, per cui effettivamente voi potete fare ben poco anche per contenere gli aumenti, no? Che arrivano. Ma sicuramente sì, oggi alle quotazioni attuali c'è una tassazione, noi siamo venditori di tasse più che di carburante, perché ogni litro di carburante ci sono il 69-70%, sì. Il corrispondente importo in euro va a coprire la quota tasse, accise ed IVA. Chiediamo, come fanno i consumatori giustamente, una riduzione delle accise. Siamo il paese che ha la tassazione più elevata d'Europa sui carburanti, e quindi questo ci porta a dire che il nostro prezzo è superiore mediamente a quello europeo, ma non perché siamo meno efficienti, ma soprattutto perché c'è un costo della tassazione troppo, certo, elevato. No, ma la questione che proprio infastidisce e che abbiamo denunciato tante volte, ma rispetto alla quale veramente non si riesce a trovare una quadra, è la cosiddetta vischiosità al contrario, cioè quando si verifica un aumento delle quotazioni internazionali il prezzo alla pompa si trasferisce immediatamente in termini d'aumento, al contrario invece molto più lento a riflettere una diminuzione delle quotazioni internazionali. L'avete sicuramente beneficiato, come lei ci raccontava prima, ma i tempi sono sempre molto più lenti. Intanto, quantificando questi aumenti e quanto peseranno nelle tasche dei consumatori, appunto c'è un calcolo fatto proprio ieri e pubblicato congiuntamente da Adusbef e Federconsumatori, che parlano di un aumento complessivo di spesa di oltre €260 per le famiglie italiane, naturalmente non solo per fare il pieno di benzina, ma anche perché le ricadute di questo caro del prezzo del petrolio si avranno, e della benzina, dei carburanti di conseguenza, si avranno anche su tutti i prezzi dei beni di largo consumo, in quanto il trasporto di questi avviene essenzialmente su gomma, quindi c'è un'ulteriore ricaduta per costi indiretti di quasi un centinaio di euro, no? Naturalmente, perché voi, Landi, rifornite anche i trasportatori, i camion, tutto ciò che porta in giro per l'Italia i beni di consumo, non solo. Ma sicuramente l'aumento dei prodotti petroliferi porta un aumento anche, come dire, indiretto di tutto, poi una serie di di beni di largo consumo, considerando che in Italia il trasporto merci per l'80% è fatto su gomma, quindi di conseguenza aumento del carburante porta ad aumentare poi i prezzi di tutti i prodotti. Però io le volevo fare un riferimento un po' più in generale. La congiuntura, come dicevamo precedentemente, nel 2015 abbiamo avuto una quotazione del barile abbondantemente sotto, intorno dai 30 ai 40 dollari, improvvisamente a fine anno questa quotazione si impenna e oggi, ieri abbiamo sfiorato i 58 dollari. Perché i paesi dell'OPEC e non OPEC hanno cominciato a tagliare la produzione, che era l'effetto voluto dall'accordo di fine novembre. Esatto, in virtù di un accordo, di un cartello direi più che di un accordo, hanno tagliato la produzione e di fatto per aumentare i loro profitti. Io credo che anche su questo argomento dobbiamo rifletterci e chiedo all'antitrust internazionale, cioè oggi è vietato fare il cartello. Se lei si ricorda, fino a qualche anno fa in Italia c'è stata la polemica che le compagnie petrolifere facevano cartello per cui la benzina costava molto più cara. Credo che però quello che denuncia lei è ben più complicato, ci sono delle questioni di natura politica, esatto, e poi di fatto un cartello è perché ci sono insomma evidenti livelli produttivi che quei paesi non perché oggi c'è un aumento di domanda e quindi c'è un aumento della quotazione. Non è così, cioè la domanda ancora è stagnante, la domanda ancora in calo, però di fatto c'è un aumento del prodotto. Ma questo è derivato da un cartello fatto dai paesi produttori del petrolio che, mettendosi d'accordo, innescano dei meccanismi per cui la quotazione improvvisamente poi per mettersi d'accordo ci mettono anche dei mesi. Detto questo, Landi, è quanto dobbiamo affrontare. Le chiedo di rimanere ancora con noi, le faccio sentire adesso il traffico, c'è poi una riflessione di un ascoltatore e volevo commentare con lei anche quanto ha deciso la regione Friuli Venezia Giulia, che invece prova a contenere questi aumenti ma soprattutto prova ad impedire che gli automobilisti di questa regione vadano a fare rifornimento in Slovenia o Austria e quindi si incarica di un po' di risparmio, appunto, a beneficio degli automobilisti. Cuore e denari. Ancora qualche minuto di tempo con Martino Landi, presidente di FAIB Confesercenti, sono i gestori, appunto, dei distributori di carburante in Italia, della rete, appunto, stradale italiana, aderente a Confesercenti, come vi dicevo. Stiamo commentando con lui i recenti aumenti dei prezzi dei carburanti determinati dall'impennata delle quotazioni del prezzo del petrolio, a sua volta determinata dal taglio ai tetti produttivi che è partito il 1 gennaio per effetto dell'accordo OPEC e non OPEC di fine novembre. Detto questo, pagano gli italiani. Allora, intanto sento Ingrid da Torino, dopodiché volevo commentare con Landi la decisione della regione Friuli Venezia Giulia. Ingrid, buongiorno. Buongiorno Deborah. Senta, io sono agente di commercio, quindi ahimè di carburante nel consumo. Hai voglia di fare i pieni, immagino. Ecco, e ne ho appena fatto uno. La cosa sorprendente è che a seconda delle zone del Piemonte, perché diciamo che non copro tutta l'area del Piemonte, ma una buona parte, già semplicemente tra il cuneese, il biellese, l'eporediese c'è una differenza sostanziale del costo carburante. Io mi chiedo perché, pur comunque utilizzando magari lo stesso brand, non parliamo dei distributori, delle indipendenti, pompe le pompe bianche, lei dice proprio gli stessi marchi brandizzati. Esattamente, oltretutto se poi considero il fatto di abitare in media Val di Susa, non le dico quanto non costi il carburante in più rispetto a una qualsiasi altra zona. È un po' come succede quando per esempio dalla città ci spostiamo in autostrada, dove pure lì le differenze di prezzo sono enormi. Grazie Ingrid. Grazie a lei e buon anno. Martino Landi, allora, senza scomodare proprio la differenza di prezzo tra rete stradale e rete autostradale, perché lei sa benissimo che cose allucinanti ci sono, ma la denuncia di Ingrid come la vogliamo commentare? In zone del Piemonte lo stesso marchio, la stessa grande insegna pratica prezzi diversi, quindi non è vero che voi non potete fare nulla, qualche cosina potete farlo. Ma guardi, lei parla con un rappresentante dei gestori, non parla con un rappresentante di una compagnia o di compagnie petrolifere. Noi abbiamo da rispettare Però se lei dice che per esempio consigliato dalla compagnia petrolifera. L'intervento di prima denunciava il fatto che anche lo stesso brand può fare e ha prezzi diversi da una zona, da una località a un'altra. Ah, quindi non è il gestore del distributore che lo... Il gestore è legato alla compagnia con un accordo dove vengono stabiliti quali sono i margini, e i margini per i gestori di quel brand sono uguali dal nord al sud. Quindi non è legato al costo del carburante. Mm. Ma dobbiamo non dimenticarci che oggi questo prodotto è su un mercato libero. Quando prima era un mercato controllato, dove i prezzi erano tutti uguali, ci si lamentava perché il carburante costava caro. Questo è stato liberalizzato, il prezzo del carburante, quindi il consumatore deve stare attento e deve scegliere quale impianto dove servirsi in funzione del servizio che quel gestore offre, in funzione del marchio, in funzione della qualità del prodotto, che può essere più o meno valido, in funzione di tanti altri fattori. Certo. Per cui il prezzo libero vuol dire che non vuol dire assolutamente che il carburante presso quel brand costi uguale sia a seconda da che cosa ci si riferisce. Esatto. Vabbè, però insomma sarà una questione che vale la pena approfondire. La concorrenza che c'è su quell'area, su quel sito. Senta, quindi... andiamo invece, perché poi devo salutarla, devo fare un piccolo approfondimento sul tema delle pensioni, che non c'entra nulla con la benzina, ma abbiamo già il prossimo ospite in linea. Però l'ultima cosa con lei volevo commentarla: Landi, allora col nuovo anno stanno proseguendo gli sconti invece sui carburanti a beneficio degli automobilisti del Friuli Venezia Giulia. Sì. C'è stata questa proposta dell'assessore all'ambiente e all'energia, si chiama Sara Vito. La giunta regionale ha confermato fino al 31 marzo una serie di incentivi per gli acquisti dei carburanti che erano presumibilmente già in vigore da prima. Non conoscevo questa notizia, ma avendoli confermati è evidente che c'erano già prima. Il tema è qua impedire che i automobilisti vadano a rifornirsi altrove. Quindi anche lì il peso delle accise sul prezzo del carburante sicuramente c'è, però qualche amministrazione locale può intervenire per così aiutare gli automobilisti a fare un pieno meno oneroso. Che ne pensa di questa iniziativa? Ma guardi, un'iniziativa, questa è molto intelligente, un'iniziativa che noi abbiamo cercato, abbiamo sempre voluto, soprattutto per non penalizzare più di tanto tutti i gestori che devono lavorare vicino al confine. Friuli Venezia Giulia, come in Lombardia, come in Piemonte, dove a distanza di 5-10 chilometri varcando il confine, gli automobilisti e quindi i consumatori di quell'area possono fare carburante con prezzi decisamente più bassi, proprio in virtù del fatto che le accise lì incidono molto meno. Mm-hmm. Quindi qui mi sembra che lei abbia detto che questo provvedimento è stato preso in pugnale da un assessore all'ambiente. Sì. Credo una proposta intelligente, perché si consente agli automobilisti di rimanere in Italia, di consumare in Italia, quindi e non di andare fuori inquinando, pagando il carburante in un altro paese e poi ritornare in Italia nuovamente a inquinare. Quindi speriamo che questa iniziativa possa essere replicata anche altrove, laddove naturalmente possibile. Ma sicuramente, altrimenti i gestori di quell'area non possono sopravvivere, non ce la fanno perché non hanno una concorrenza vicina, proprio. Certo, grazie. È una concorrenza sleale quella dovuta al fatto che ci sono diverse misure fiscali che pesano sui carburanti. C'è la possibilità di acquistare carburanti a condizioni molto molto più vantaggiose. Martino Landi, grazie per essere stato con noi, buon anno. Prego, grazie allora, a voi. Cambiamo rapidamente argomento. Qualche minuto di tempo con Fabio Venanzi, esperto di questioni previdenziali per Il Sole 24 Ore. Buon anno anche a lei, Venanzi, ben trovato. Buongiorno Deborah, buon anno. Qualche minuto di tempo per spiegare questa notizia che abbiamo anticipato anche ieri, ne vorremmo capire un po' di più le implicazioni pratiche. Nel 2017 tutte le prestazioni pensionistiche saranno pagate il primo giorno bancabile del mese, per gennaio si è trattato del secondo giorno bancabile, unica eccezione, quindi le pensioni sono state messe in pagamento ieri. Ci spiega bene cosa vuol dire tutto questo, peraltro è stata una misura fortemente voluta dall'INPS che ha in questa maniera voluto unificare le date carte di pagamento di tutte le prestazioni pensionistiche IMSS, INPDAP ed ENPALS. Venanzi, a lei la traduzione per i nostri pensionati di questo provvedimento. Allora, dobbiamo tornare indietro a giugno 2015, quando, ricorderemo tutti quanti, il governo aveva recepito gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla mancata perequazione delle pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo. In quella sede fu stabilito che tutte le pensioni venissero pagate il primo giorno del mese, questo diciamo per uniformare i tempi tra i diversi istituti di previdenza, tra le diverse gestioni, perché noi fino a quel momento avevamo l'INPS e l'INAIL che pagavano il primo del mese, l'INPDAP per i dipendenti pubblici che pagava il 16 di ogni mese, l'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo il 10 di ogni mese e così via. Quindi per evitare che l'INPS, considerato che tutti questi istituti poi sono di fatto stati incorporati in dentro l'INPS eccetto l'INAIL, si stabilì di far partire un bonifico unico, questo al fine di ridurre anche il costo delle commissioni bancarie da parte dell'INPS stesso. Cioè, dobbiamo pensare che l'INPS ogni mese spende circa 4 milioni di euro solo di commissioni per accreditare le pensioni agli aventi diritto. Lo spostamento al mese di gennaio invece al secondo giorno bancabile era legato al fatto di migliorare i cosiddetti saldi di bilancio, di migliorare il debito pubblico, perché se la pensione di gennaio venisse accreditata il primo giorno utile, quindi teoricamente il 2, visto che il primo è sempre festa, il bonifico per l'INPS doveva partire a dicembre e quindi è come se nell'anno precedente ci fosse un aggravio di costo. Quindi fu stabilito di posticipare al secondo giorno bancabile di gennaio, così la rata di gennaio anche per lo Stato gravava sul bilancio dell'anno successivo. Il problema, quindi, sono ragioni diciamo di contabilità generale dello Stato quelle che hanno portato a questo provvedimento, certo. Esatto. E soprattutto anche di uniformazione delle diverse valute, perché altrimenti l'INPS in un mese doveva quantomeno disporre almeno 3-4 infatti, diciamo, liste. Perché i pagamenti per l'INPDAP, per l'ex INPDAP, andavano a metà del mese, quelli di ex ENPALS, lo scriveva proprio lei sul Sole 24 Ore in questi giorni, il 10 del mese, e quindi invece è stata fatta questa operazione di razionalizzazione che mi sembra ragionevole. Ma ci sono delle penalizzazioni per i pensionati, Venanzi? No, assolutamente, perché comunque sono state anticipate tutte quante le prestazioni di fatto al primo giorno bancabile, perché con il mille proroghe di fine dicembre 2016 hanno ripristinato la valuta di accredito al primo giorno bancabile, quindi solo nell'ipotesi in cui il primo giorno del mese dovesse essere festivo, allora avremo un posticipo al primo giorno seriale successivo. Abbiamo la particolarità, giusto da dire ai nostri ascoltatori, di aprile e di luglio, dove iniziando il mese di sabato chi avrà l'accredito disposto sulle poste riscuoterà il primo, perché per le poste il sabato è un giorno cosiddetto bancabile, invece chi ha l'accredito sul conto corrente bancario il lunedì successivo. Grazie, perfetto. Grazie mille a Fabio Venanzi, grazie per questi chiarimenti che ci sembravano dovuti ai nostri amici pensionati. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, torniamo subito dopo con la questione delle termovalvole e il riscaldamento in condominio. Cuore e denari. Inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Eh sì, fa freddino e le temperature caleranno ulteriormente nei prossimi giorni secondo le previsioni, ne abbiamo parlato anche ad inizio trasmissione, purtroppo queste temperature non stanno portando gran neve per il disappunto dei gestori di impianti sciistici naturalmente nelle località più belle d'Italia. Detto questo, i riscaldamenti però vanno a mille nelle nostre abitazioni. Allora, perché partiamo da questo? Perché a fine anno è arrivata la proroga al 30 giugno 2017 per l'installazione di contabilizzatori e termovalvole nei condomini con riscaldamento centralizzato, un tema che ha fatto tanto discutere perché in realtà questo adeguamento richiede lavori anche a volte impegnativi negli stabili, negli edifici italiani, ed è un tema anche molto divisivo in assemblea di condominio. Quindi abbiamo voluto approfittare anche di questa proroga per tornare a parlarne come tema appunto tra i primi dell'anno, con due ospiti che ne stanno molto, ne scrivono molto anche per Il Sole 24 Ore. Intanto il collega Saverio Fossati, che saluto. Buon anno, Saverio. Buon anno e buongiorno a tutti. Anche a te, buongiorno e buon anno, così come auguro un buon anno a un nostro graditissimo ospite, non perché Saverio non lo sia, ma l'avvocato Correale è davvero simpatico, l'avvocato Eugenio Correale, direttore del Centro Studi Anaci Provinciale di Milano. Buongiorno, l'Anaci e l'Associazione degli Amministratori di Condominio. Avvocato, ben ritrovato. Grazie, buongiorno. Grazie per la bella presentazione, auguri. Allora, 800 24 00 24, torno a ricordare il numero verde per i nostri ascoltatori che in realtà hanno già cominciato a telefonare sull'argomento non appena l'ho lanciato. Vi chiedo: avete installato correttamente, avete preso questa decisione in condominio di installare correttamente le termovalvole nell'abitazione, appunto nella vostra abitazione, oppure siete in ritardo e questo provvedimento calza a pennello per voi? Avete ancora 6 mesi di tempo per l'adeguamento. È un tema che naturalmente è molto caldo, soprattutto per gli amministratori di condominio che devono gestire le decisioni, l'accordo fra i condomini e poi far fare naturalmente tutti i lavori nello stabile. E quindi scriveteci un po' cosa sta succedendo a casa vostra. Allora, Saverio, dal punto di vista giornalistico vorrei cominciare con te e vorrei che ci raccontassi come mai è arrivata questa proroga a fine anno, visto che praticamente è da molto tempo che si parla di questo adeguamento per tutti i condomini d'Italia a fine 2016 e invece in realtà non ce l'abbiamo fatta, tanto che è stato necessario prorogare il termine. Ma sì, la colpa però non è stata una volta tanto dei cittadini, ma è stata del governo e parte anche del Parlamento. Allora, nel 2014 con il decreto legislativo 102 è stata data attuazione alla direttiva che imponeva a grandi linee una serie di provvedimenti sul risparmio energetico, cioè, tra cui l'installazione dei contabilizzatori. I contabilizzatori di calore servono a far sì che più o meno la spesa di consumo corrisponda esattamente a quanto è stato consumato nella singola unità immobiliare. Perché qualche volta insomma ci sono appartamenti in cui è troppo caldo, gli abitanti naturalmente si lamentano ma non riescono a modulare naturalmente la diffusione del calore nel loro impianto. Con la termovalvola è possibile, di conseguenza è un po' come se uno avesse un piccolo riscaldamento autonomo in casa sua pur avendo l'impianto centralizzato. Sì, ecco, è da dire però che la ragione del risparmio energetico reale risiede in una vera diagnosi energetica che deve essere fatta sull'edificio, in modo da capire che non solo si debbano installare il termovalvole, ma soprattutto prendere gli accorgimenti necessari come la coibentazione, il cappotto termico e altre cose che servono effettivamente a risparmiare, perché altrimenti cosa succede? Senza la diagnosi energetica, che purtroppo rimane facoltativa, e senza un investimento forte in risparmio energetico con questo genere di opere, dice che chi sta all'ultimo piano o al piano terra, cioè quelli o in, certo, cioè chi va a fuoco e chi invece sta nella ghiacciaia. E perciò quelli che stanno, per così dire, sono più svantaggiati, aumenteranno il termovalvolo per avere caldo e consumeranno tantissimo. Quelli che sono in mezzo, come il prosciutto del panino invece, potranno tenere le belle basse, le termovalvole, e risparmiare tanto, ma tutto, diciamo così, a vantaggio personale e a danno di quelli che stanno invece nei posti più svantaggiati. Questo succederà, anzi questo sta già succedendo e sta già portando a notevoli polemiche. E anche a qualche anche contenzioso legale, perché so che l'avvocato Correale ne segue parecchi in questo senso. Avvocato, la coinvolgo subito. Sono coloro che iniziano le cause a coinvolgermi, nel senso che a me capita spesso di essere quello che si costituisce per il convenuto. Ma vengono a fare delle denunce perché il mio appartamento è troppo caldo, perché non è stata fatta un'adeguata diagnosi energetica e l'applicazione delle termovalvole non è corretta nel mio condominio, non siamo ancora partiti, cioè si parte anche con questo presupposto? È difficile che si sia così sofisticati, in realtà ci si ferma a una considerazione molto più banale. L'anno scorso avevo pagato uno, oggi messa la contabilizzazione mi trovo a pagare 3. E quindi c'è qualcosa che non va. In realtà è sempre il livello degli addebiti, ora fatto un po' di paradosso, diciamo. Comunque l'incremento dei costi è quello che suscita le perplessità, anche perché il singolo condominio in realtà non è che sia in grado di verificare esattamente se il sistema funziona bene. Infatti, l'unico parametro infatti io guardi non saprei proprio storico. Non saprei proprio da dove cominciare. Ed è su quello che si instaurano le controversie. Poi c'è il grosso problema della delibera. Ormai siamo in tema di trasparenza, gli amministratori correttamente convocano le assemblee, mettono in discussione tutto e poi pongono all'ordine del giorno, tra le discussioni, la quantificazione della cosiddetta quota fissa. La legge dice una roba molto più elegante, i consumi non volontari, ma siamo sostanzialmente in quel campo. E allora, quando si tratta di determinare chi paga di più, chi paga di meno, qualche dissenso viene. Chiaramente quello che ha detto il dottor Fossati è assolutamente centrale: il problema è dato dalle unità immobiliari svantaggiate. Chi si trova alle periferie o comunque dell'edificio o comunque in posizione non coibentata sa di essere esposto o ad avere più freddo, ad avere più costi, e quindi cerca di difendersi aumentando la quota fissa, aumentando quello che comunque viene posto a carico di tutti, prescindendo dai consumi. Saverio, esistono dei censimenti, comunque a prescindere dalle questioni conflittuali che si possono scatenare all'interno di un condominio, ma esistono delle statistiche che ad oggi ci dicono quanti condomini si sono adeguati alla nuova normativa e quanti invece ancora sono indietro? No, assolutamente non ci sono cifre nessun genere, anche perché non è che venisse imposto, diciamo così, una segnalazione a un organo centrale dell'avvenuto adempimento. Però per chi non si adegua, in realtà la sanzione è prevista, anche se adesso c'è la proroga, questa sanzione verrà appunto poi applicata eventualmente da luglio dell'anno prossimo, per cui da quel momento in avanti forse il censimento sarà possibile farlo, se scatta il meccanismo sanzionatorio. In realtà sì, diciamo, faranno il censimento sulla base delle sanzioni irrogate, ma più semplicemente diciamo che la grande massa dei condomini non si è adeguata, perché è vero che la legge è il decreto legislativo 102 del 2014, ma gli ultimi correttivi sono arrivati ad agosto dell'anno scorso, del 2016. Quindi oggettivamente tutti quelli che hanno saggiamente aspettato di vedere cosa bisognava fare non hanno fatto in tempo. Quelli che invece si sono mossi per tempo molto spesso hanno sbagliato. Ecco tutto, hanno sbagliato ma involontariamente, seguendo la legge che poi è stata cambiata. Questa è un po' la cosa scandalosa. Potrebbero aver sbagliato, quindi in che cosa? No, fammi capire, perché io abito in un condominio che invece ha eseguito la legge alla lettera e quindi siamo adeguati già da tempo. Che cosa potrebbe essere successo? In che cosa Sotto alcuni profili tecnici, il decreto legislativo dell'agosto scorso impone delle modifiche, soprattutto sotto il profilo che diceva l'avvocato Correale, e cioè quello del calcolo della quota fissa. Quindi, dato che sono cambiate le regole sulla quota fissa, quelli che si sono basati sulla normativa precedente, in sostanza si trovano ad aver avuto una quota fissa, diciamo così, più generosa nei confronti degli svantaggiati. Ecco. E adesso sicuramente qualcuno potrebbe pensare di adeguare la delibera condominiale alla nuova normativa e di conseguenza creare ulteriormente un nuovo contenzioso. E certo, ma questo significa anche rimettere mano alle valvole già installate in casa? In qualche caso sicuramente sì. Quindi anche nuovi lavori, nuove assegnazioni naturalmente di lavori a tecnici specializzati, quindi spese ulteriori anche da quel punto di vista. Questo sì, riguarderà una minoranza naturalmente, però parliamo della maggioranza. La maggioranza non ha ancora fatto nulla e quindi, per carità, partirà col piede giusto. Gli rimangono alcuni mesi, perché diciamo dal 15 aprile, dove il giorno in cui si chiudono i riscaldamenti in grandissima parte d'Italia, al 30 giugno ci sono 2 mesi e mezzo, però sicuramente le cose vanno fatte, diciamo, con criterio. Questa proroga che è stata chiesta alla Confedilizia, ma sostenuta anche dalla NACI, era assolutamente indispensabile, eppure l'hanno concessa 30 dicembre. Infatti. E vabbè, qua a naso, così, visto che peraltro poi andiamo incontro all'estate, ho la sensazione che magari anche per tutto il 2017 la proroga sarà un po' più lunga. Detto questo, andiamo a cominciare a sentire i nostri ascoltatori, che ovviamente ci sottopongono le loro situazioni, e vediamo se, partendo da questi casi specifici, possiamo dare poi dei suggerimenti di carattere generale. Luigino dalla provincia di Treviso all'800240024, benvenuto, buon anno. Buon anno anche a lei. Ci dica. Buongiorno. Io ho un piccolo ufficio in un condominio di 10 unità e ci sono due situazioni di morosità pazzesca. Importante, sì. Molto so, importante. È molto quindi diffusa questa situazione. Noi certo. abbiamo già deliberato l'anno scorso di già procrastinare l'installazione di questa termovalvole per il semplice fatto che altrimenti gli altri 8 condomini dovrebbero sopportare le spese anche per gli altri 2 non pagano. Cosa si fa in questi casi? Grazie Luigino. Cosa si deve fare? Abbiamo bisogno della consulenza legale, avvocato Correale. Francamente sarei poco propenso a procrastinare l'intervento della contabilizzazione per l'esistenza di morosità. Tutto sommato la contabilizzazione permette di registrare meglio i consumi. No, il problema non è che quei due condomini lì, sì esatto, però non pagherebbero neanche per questo lavoro che comunque immagino un po' di impegno economico lo richieda. Certamente. Allora, se non hanno fatto nulla possono attendere sostanzialmente fino al 15 ottobre del 2017, però il 15 ottobre del 2017 dovranno essere sicuramente a posto. Se hanno fatto già gli interventi, c'è una stranissima norma transitoria molto, molto particolare, indicativa di come ci si muova male in questo settore, che dice che chi ha già provveduto può continuare a perseverare nell'errore, per cui le contabilizzazioni già installate possono godere di questa sorta di, come dire, di permanenza nell'errore che indica anche come tutta la normativa sia abbastanza farraginosa, non so se sono stato chiaro, c'è una nuova norma che dice che per calcolare i consumi non volontari va applicata la normativa UNI e che quella normativa è l'unica che debba essere considerata, e poi c'è una norma transitoria che dice questo, se però tu avevi già provveduto rimanerà, e questa è un, chiaramente un'indicazione di sofferenza del sistema, ma anche la ragione perché i condomini siano un poco persuasi a realizzare questo intervento. E quello che ha detto il dottor Fossati va veramente ponderato. Lui ha detto chi si è adeguato per primo si trova ad avere dei problemi, chi non ha fatto nulla, il dottor Fossati ha detto è stato più saggio. Io devo dire forse conosceva meglio la nostra Italia. Ecco. Sì, vabbè, detto questo, avvocato, comunque per dare proprio un suggerimento concreto all'ascoltatore, suggerimento pratico è di andare avanti nella procedura per il recupero della morosità, è quello l'unico. Consideriamo che oggi le procedure esecutive sono estremamente più rapide che il passato. Noi siamo abituati a pensare che tutta la giustizia italiana sia lentissima, è abbastanza vero, ma abbiamo avuto delle accelerazioni, in particolare per i pignoramenti immobiliari siamo passati dai lustri agli anni. In questo l'unico suggerimento che va dato è ricordati che prima inizi e prima finisci. Esatto, e poi comunque oggi c'è anche l'obbligo da parte dell'amministratore di condominio di fare anche fino all'estremo decreto ingiuntivo, perché deve tutelarsi in primo luogo lui come professionista e poi tutelare anche tutti gli altri condomini, no? Oggi anche in questo senso per chi ha condizioni di morosità purtroppo le situazioni sono un po' più complicate, ma in virtù proprio di una tutela complessiva di tutti gli altri. Allora, Leila da Milano, benvenuta. Sì, grazie, buongiorno. Buongiorno e buon anno. Volevo dire, io nel mio condominio ci sono i pannelli a pavimento e pertanto non c'è il calorifero a cui applicare il dispositivo. Il nostro amministratore ha detto che in questo caso non si deve fare niente, è vero? Allora, Leila, ma Saverio, da che mi risulta in realtà ci sono delle canne, non so se fumarie, dove in realtà la valvola va applicata, mi sbaglio? No, canne fumare non c'entra. Dove si applica la valvola? Si applicano all'ingresso si dovrebbero applicare all'ingresso del tubo orizzontale che entra nell'appartamento sottostanti questi tubi al pavimento, perché penso che questa sia la situazione della ripartizione orizzontale di cui parla questa signora qua. Una serie di condomini hanno questo, non moltissimi, insomma, hanno questo sistema. Non è che chi ha il riscaldamento a pavimento non le deve applicare, in realtà la soluzione tecnica c'è. Hanno un altro tipo di soluzione tecnica che è indicata nella normativa, però qualche volta esiste una vera impossibilità tecnica di installarli, che deriva da un confronto fra le spese che dovrebbero essere fatte per fare questo tipo di opere e il risparmio energetico effettivo, cioè bisogna fare un confronto di cui abbiamo parlato anche sul Sole 24 Ore quando il Ministero dell'Infrastruttura ha dato alcune indicazioni a riguardo. Quindi ci non emettere legittimamente, ma ci vuole una un'analisi tecnica fatta da un tecnico che dica sì, effettivamente qui lo svantaggio economico è tale per cui non si possono installare i contabilizzatori. Chiaro. Questo riguarda sia i sistemi orizzontali sia in qualche rarissimo caso anche quelli. Però insomma diciamo che adesso stavo pensando a lei, diciamo che l'amministratore di condominio magari non sa lui dare tecnicamente una risposta, ma sa certamente cercare il profilo tecnico che ne sappia dare quella adeguata, anche se il riscaldamento e pavimento. Ecco, speriamo perlomeno per l'edificio in cui abita Leila. Alessandro da Ferrara, benvenuto. Buongiorno, grazie. Senta, io ho una domanda riguarda uno stabile di mia proprietà, sì, che è composto da 6 appartamenti. Sì. È tutto mio, non c'è un amministratore di condominio perché non c'è. Lo fa non lei, c'è un lo fa lei. È affittato tutto a degli inquilini. Ho l'obbligo di installare termovalvole oppure no? Alessandro, grazie. Avvocato Correale. Beh, intanto... Ha un riscaldamento centralizzato, Alessandro, questo appartamento? Ha un riscaldamento centralizzato. Ah, sì. La legge è riferita unicamente ai condomini, tanto è vero che le sanzioni sono tutte quante riferite esattamente ai condomini. Ah. Comunque la possibilità... No, però è una domanda di... interessante questa. Ma molto interessante, perché dice proprio come la normativa sia stata fatta senza considerare la varietà delle situazioni. Noi abbiamo dei contratti di locazione che ormai sono liberi, per cui l'obbligo di pagare le spese è rimesso alle clausole contrattuali. Abbiamo una situazione nella quale, come dice giustamente il signore, l'ascoltatore, vanno ripartiti i consumi tra più soggetti, sarebbe del tutto logico e del tutto normale che i consumi siano registrati in maniera corretta attraverso la contabilizzazione, ma le sanzioni sono previste unicamente per i condomini. Per cui Alessandro non ha nessun obbligo di installare le termovalvole per regolarizzare appunto il consumo energetico degli appartamenti del suo stabile. Lui non ha nessun obbligo. Esatto. Neanche prorogato, ecco, anche se è prorogato. Allora, Valerio da Modena, andiamo verso la conclusione del nostro blocco dedicato alle termovalvole in condominio. Valerio, benvenuto. Sì, buongiorno, buon anno a tutti. Volevo fare questa domanda, poiché può succedere, e accade nel condominio dove abita mia madre, che in alcuni appartamenti non è stato possibile accedere per installare le termovalvole. Sì. Parliamo ovviamente di un grosso condominio con un po' di problematiche. Certo. Allora, io ho sentito dire, volevo sapere se era vero... Non si può abbattere la porta, naturalmente. Esatto. Quindi, se è possibile di fatto suddividere poi il consumo, diciamo, del riscaldamento, di fatto in due sottoinsiemi, coloro che le hanno installate e coloro che non le hanno installate, che saranno ovviamente poi ripartiti i consumi a millesimi, e quegli altri... invece secondo il proprio consumo. Volevo capire se questo è vero è e se tecnicamente è possibile, perché che i contabilizzatori di calore non registrano il consumo ma semplicemente evidentemente il calore. Grazie Valerio. Allora, avvocato Correale, qua abbiamo una nuova fattispecie giuridica per lei. Beh, questa qui è più semplice di quella di prima perché la normativa la contempla. La soluzione corretta è quella di chiedere l'accesso. Se il condomino non autorizza l'accesso, ci si può rivolgere al giudice. La soluzione pratica che suggeriva l'ascoltatore non è possibile, perché equivarrebbe a dire che chi vuole si collega e chi non vuole non si collega. I rimedi sono sostanzialmente due. Il primo è quello di segnalare la mancata possibilità di accedere ai fini dell'erogazione delle sanzioni. Noi diciamo le sanzioni, ma le sanzioni sono previste a carico di ciascun condominio che non si collega. Per cui chi non permette la contabilizzazione può essere soggetto alle sanzioni, ed è soggetto lui, non tutti gli altri. E la soluzione empirica, forse più semplice, però l'ha adottata un amministratore che ha detto: visto che non posso registrare i tuoi consumi, considero i tuoi addebiti come se tu avessi consumato il massimo possibile, cioè come se tu avessi tenuto sempre le valvole al massimo. Infatti. Non so quanto tenga sul piano del diritto, certamente sul piano della persuasione è un argomento estremamente persuasivo. Allora, intanto stavo leggendo anche numerosi messaggi che stanno arrivando dagli ascoltatori, oltre a tutti quelli che hanno chiamato e abbiamo percepito. come sempre succede quando parliamo di condominio, che anche il tema di stamattina come dire, fa esplodere molta sensibilità. C'è Davide che ci scrive: condominio comunale di 50 anni come comunale, vabbè, riscaldamento condominiale coibentazione zero all'ultimo piano, che è solo il quinto peraltro, quindi non parliamo neanche di un ventesimo piano, appartamento difficile da scaldare, se installano le valvole termostatiche viene fuori un consumo esagerato. Proprio questo è il tema, no, che indicavamo, Saverio Fossati. I timori sono questi. Sono questi e sono irrisolvibili. Si tratterà probabilmente di un condominio extra di proprietà comunale in cui alcuni appartamenti sono stati venduti, cui c'è il condomino grosso che è il comune, il resto sono i condomini piccolini che hanno comprato. Senti, sulla questione... Sì, no, scusami che ti ho interrotto, poi... No, dicevo, senza che venga fatta una diagnosi energetica e dei lavori grossi, il problema resterà enorme. Cioè, questo qui si troverà a consumare tantissimo, legittimamente, sarà tenuto a pagare. Non troverà mai una maggioranza che gli dia ragione, perché gli altri sono avvantaggiati dal fatto che lui paga tanto. Prima abbiamo analizzato il caso di quell'ascoltatore che è proprietario di un intero edificio di cui affitta tutti gli appartamenti e non ha l'obbligo appunto di installare le valvole termostatiche. In realtà c'è un ascoltatore che ci segnala che in Lombardia, anche se lo stabile è di unica proprietà ed è tutto affittato, questa installazione è obbligatoria. Vi risulta, Saverio? Ci risulta in questo senso. Ecco. Allora, la normativa parla del fatto di installare obbligatoriamente contabilizzatori termovalvole anche negli edifici polifunzionali, anche se non sono condominiali. Cosa vuol dire edifici polifunzionali? Si è scatenato un gran dibattito su questa faccenda. Sembra che siano gli edifici, almeno quanto dice il Ministero, che hanno diverse funzioni, cioè magari tutto abitativo con un negozio, o tutto ufficio con un negozio, o tutti i negozi con un'abitazione. Ecco, questo dal punto di vista strettamente formale. Quindi, è ancora su questo non c'è dubbio, lì vanno installate le termovalvole. Quando c'è un edificio solo ed esclusivamente abitativo, invece le norme regionali si sono un po' scatenate e quindi hanno detto no, qui va benissimo installare le termovalvole, qui invece non è necessario installarle. Diciamo che dal punto di vista del concetto stesso della legge, cioè il risparmio energetico, è chiaro che andrebbero installate dappertutto, perché solo così la gente è spinta a regolare i propri termosifoni in modo da risparmiare. Se non li installi, tutti continueranno a consumare il massimo. Cioè, è anche nell'interesse degli inquilini, ma è anche nell'interesse più complessivo sociale del risparmio energetico, installarlo ovunque. Un grande tema. Detto questo, poi noi rimaniamo però a ragionare nel nostro orticello. Grazie. Grazie all'avvocato Correale, Eugenio Correale, per essere stato con noi. Grazie anche a Saverio Fossati. Terminiamo qua questo approfondimento, ma ci ritorniamo a giudicare dalle telefonate e dai messaggi che sono arrivati. Intanto voi, se volete, potete continuare a scriverci, a interpellarci anche in via privata, cuoredenari@radio24.it. Proviamo sempre a dare una risposta a tutti, anche quando, come in casi come questo, con temi così divisivi, ci inondate di mail, proviamo ad accontentare tutti. Non riesco a rispondere ad Andrea da Pisa, ci scriva Andrea: adesso abbiamo la borsa, poi in qualche maniera continueremo a mantenerci su questo tema, perché con un esperto tra poco appunto proveremo a capire qual è la temperatura adeguata per una buona qualità di vita all'interno delle nostre abitazioni. Parleremo anche della qualità del nostro sonno, qual è il materasso giusto su cui appoggiarci, su cui riposare. Tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Cuore e Denari. Fantastico il divano per star lì, sdraiati avanti alla TV. Mai materasso, un compagno di vita, letteralmente parlando. Passiamo su di lui un terzo della nostra vita, e come succede con i conviventi stretti, a lui imputiamo anche molti dei nostri malesseri, il mal di schiena, il mal di collo, i brutti sogni. Sappiamo però quanto importante sia dormire e dormire bene. Chi dorme bene invecchia meglio, ma non sempre il nostro materasso è quello giusto per noi. Vi segnalo una ricerca pubblicata oggi da Repubblica sull'insonnia. Brutto affare, le notti in bianco degli italiani costano 5 miliardi. Peraltro lo segnalo scritto da un nostro amico che è Ettore Livini, che generalmente si occupa di grandi questioni finanziarie internazionali. Oggi si cimenta anche in questo pezzo. Ma perché parla di insonnia? Perché è un problema che in Italia riguarda 4 milioni di persone che soffrono di insonnia cronica, il 6,6% del totale della popolazione, e questo danneggia anche l'economia, perché naturalmente se si dorme male di giorno non si sta bene, di conseguenza si lavora male, si hanno un sacco di disturbi, e questo pesa sull'economia fino a 5 miliardi di euro. Professor Fabrizio Ponteggia, medico specialista fisiatria, docente di medicina fisica e riabilitativa all'Università degli Studi di Perugia, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Lo sapeva quanto costasse l'insonnia all'economia? La colpisce questo dato? Oppure per lei che, come dire, si confronta magari con gli insonni frequentemente, è una circostanza che conosceva, con la quale è confidente? Beh, mi colpisce la quantificazione. Vero? Ma che fosse un'entità rilevante poteva essere incredibile, perché, certo, perché poi condiziona sia il rendimento, le presenze lavorative, quindi esatto. No, tra l'altro proprio ecco, un ulteriore dato riferito a questo esame fatto da Repubblica dice che praticamente chi dorme male ha un calo di produttività anche sul lavoro del 2,4%, e questo riguarda soprattutto questa cifra per chi dorme meno di 6 ore a notte. Per non parlare poi di tutto quello che significa anche pericolo di incidenti stradali, vero? Sul lavoro. Esatto, sul lavoro, bravo, pure. Bravo. Per cui attenzione, allora fate attenzione, perché magari qualche volta dormiamo male, lo diciamo tante volte con Nicoletta, ma non ne abbiamo la percezione, ce ne accorgiamo magari solo se durante la giornata siamo disturbati, allora magari con delle dovute analisi e diagnosi ritorniamo appunto anche alla qualità del sonno. Detto questo, andiamo al materasso, che fa molto anche per farci riposare bene, no? Per farci dormire bene, professor Ponteggia. Chi si è trovato nelle condizioni di dover cambiare il materasso sa per esperienza che c'è intanto un'offerta molto ampia e la scelta alquanto difficile. Insomma, c'è un materasso che va bene per ogni persona, non un unico prodotto può andare bene per milioni di persone, no? Allora, partiamo dalle caratteristiche del materasso, oppure dobbiamo partire dalle caratteristiche personali, dalle nostre esigenze per fare la scelta giusta? Ma direi che dobbiamo partire da entrambi i fattori, tenendoli in diversa considerazione. Facciamo una distinzione: se una persona ha un sonno ristoratore, si sveglia senza sintomi, con una sensazione soggettiva, funzionale, buona, soddisfacente, non c'è assolutamente motivo di cambiare le caratteristiche del materasso, quindi sarà semplicemente una sostituzione. Se invece la situazione cambia, se la qualità del riposo non è soddisfacente, se ci sono dei sintomi, bisogna allora assolutamente analizzare la tipologia dei disturbi, e poi di questo ne possiamo parlare più diffusamente, analizzare il materasso e la rete attuali, e per questo ci sono professionisti, cioè personale competente, e capire se dormendo su altri tipi di materassi in casa o in una situazione di vacanza sia stato meglio o peggio. Questa è la prima prova da fare, stando attenti a non farsi suggestionare da un effetto placebo o da situazioni episodiche. Quindi prima distinzione: se il riposo è buono, semplice sostituzione, altrimenti capire perché non è buono il riposo. Certo, tra l'altro stavo pensando adesso che da quello di lana delle nostre nonne, professor Ponteggia, all'offerta commerciale che abbiamo a disposizione oggi, sembrano passati veramente dei secoli. Chi mai avrebbe immaginato tutte le tipologie di materasso che potevamo avere oggi a disposizione appunto qualche anno fa? Sì, quindi esatto. Fare anche una scelta, voglio dire, anche cominciare a provarli tutti per capire qual è quello che fa al caso nostro, non è proprio un'operazione semplice. No, no, assolutamente, ma infatti non bisogna semplicemente, se uno ha la fortuna di avere una seconda possibilità in casa, la prova fatta in casa. Certo. La regola qual è? La regola è che la colonna dovrebbe restare abbastanza allineata, per cui il materasso, un tempo si parlava di materassi rigidi, durezza notevole, materasso deve accogliere il corpo senza né farlo sprofondare né respingerlo. Chiarissimo. Quindi deve appena accoglierlo. E quindi parliamo di materassi di durezza certo. media. Poi questo è condizionato ai materiali. Ovvio. Poi attenzione a non vanificare lo sforzo dell'aver trovato il materasso giusto con il cuscino sbagliato, perché poi no. Assolutamente. Poi ne parliamo. Su questo abbiamo una fior di letteratura, esatto. Possiamo parlarne a fondo, perché ne parliamo senz'altro. Ci occupiamo. Intanto manteniamoci un po' il materasso. Ogni quanto va cambiato? Dipende anche dalla, come dire, qualità di pulizia all'interno della nostra abitazione, perché anche l'aspetto poi della, ovviamente, dell'igiene del materasso penso che sia importante. Ma in realtà quanto a lungo può andar bene per il nostro corpo? Per quanti anni? Se parliamo di media, che poi le medie sono sempre sottoposte a tanti condizionamenti, parliamo di una media di ogni 10 anni. Dipende moltissimo dalle condizioni ambientali, e per ambientali intendo in senso ampio, non soltanto igieniche, ma anche di natura, di temperatura, quanto uno suda, dal peso della persona, dai materiali impiegati, dalle tecniche costruttive, questo come un po' per tutti gli oggetti. Una media di 10 anni è di buon senso. Allora, intanto stavo cominciando a leggere dei messaggi dei nostri ascoltatori, che peraltro invito anche a chiamarci all'800 24 00 24 se volete avere qualche suggerimento a proposito, se magari avete proprio fatto questa scelta quest'anno, se questo 2017 porterà il materasso nuovo a casa vostra, ma non sapete bene da che cosa partire per fare una scelta adeguata per il vostro corpo, per un adeguato riposo, appunto potete chiamarci, il professor Ponteggia stamattina è a nostra disposizione. Senta, che ne pensa di quelli che fanno questa curiosa scelta di mettere due materassi singoli affiancati anziché utilizzare quello matrimoniale? Ma se è un capriccio, penso che è una scelta bizzarra, nel senso che poi ha caratteristiche di scomodità. Ma tornando a cose un pochino più scientifiche, diciamo che come in tutte le cose della vita è una questione di bilancio. Di bilancio tra esigenze personali e scomodità, ma esigenze personali non sono soltanto di natura così di comodo, ma spesso dipendono da differenze rilevanti di peso, da patologie personali che potrebbero necessitare caratteristiche certo. molto diverse. Esistono dei materassi, quindi a rete singola, che riescono ad adattarsi entro certi limiti a pesi diversi o anche a situazioni di patologia diversa. È chiaro che se superano queste necessità, la rete indipendente diventa indispensabile. Certo. Senta, materasso giusto, rete sbagliata, è possibile fare anche questa accoppiata e può provocare appunto una, eventualmente non dico un danno addirittura al fisico, ma in ogni caso qualche disturbo anche nel riposo, oppure non influiscono? È bene che comunque ci sia anche una buona accoppiata da questo punto di vista. È assolutamente necessario che ci sia una buona accoppiata, quello che ha detto è fondamentale, cioè non un materasso, una rete o l'accoppiamento non causano mai patologie, questo deve essere chiarissimo, quindi non causano patologie, possono semplicemente aumentare, esacerbare dei sintomi, oppure spesso i pazienti dicono ma io non avevo nulla, ma fanno emergere sintomi di situazioni patologiche preesistenti. Adesso parleremo allora di questi segnali ai quali fare attenzione per capire se magari il materasso è stato l'involontario protagonista dell'emersione di nostri problemi fisici. C'è Cristina che ci scrive: prima di parlare dei materassi avrei preferito ascoltare delle apnee notturne, del russamento che si manifestano appunto a prescindere da dove si dorme. Cristina, oggi il tema è il materasso perché abbiamo scelto questo argomento. Se lei va sul nostro profilo sul sito di Radio 24 e trova la nostra trasmissione, troverà decine di trasmissioni sul riposo notturno, su quando questo è un cattivo riposo, le apnee notturne. Abbiamo affrontato questo argomento con il professor Lino Nobili, appunto del Niguarda di Milano, tantissime volte, quindi oggi proprio assumo le veci di Nicoletta al 100%. Abbiamo fatto tantissime trasmissioni, le trova facilmente. Se non le trova, ci scriva a cuoredenari@radio24.it e noi le manderemo tutti i link. Detto questo, però, facciamola magari una relazione per chi soffre di apnee notturne. Secondo lei il buon materasso le può alleggerire, professor Ponteggia, oppure è ininfluente la qualità del materasso se si ha questo tipo di problema? Ma guardi, non ho competenze professionali specialistiche per... Non le è capitato di riscontrare... A questa domanda, cioè non fa parte della sua competenza, va bene. Allora facciamocelo raccontare dagli ascoltatori, se magari avendo delle apnee notturne hanno ritrovato che magari anche cambiando il materasso in abbinata al cuscino hanno respirato un po' meglio e non sono andati in apnea di notte. Allora, è tempo del traffico, sì, poi continuiamo con il materasso. Cuore e denari. La notte piccola per noi, troppo piccolina. Eh sì, per molti la notte è piccola, vorrebbero dormire a lungo, c'è chi invece si accontenta di un numero abbastanza contenuto di ore di riposo. Detto questo, l'importante, poche o tante, che il materasso sia quello giusto per il nostro corpo. Tante domande per lei, professor Ponteggia, all'800240024. Prima di sentire Luciano da Bari, Rina dalla provincia di Vicenza e Marisa dalla provincia di Pavia, una domanda: è difficile controllare la postura mentre si dorme, ma a patto di poterlo fare e controllare. Ci sono posizioni più a rischio di altre? Beh, ci sono posizioni sicuramente peggiori delle altre, soprattutto in base a fattori di rischio preesistenti del singolo paziente. Ad esempio, dormire di lato per chi ha problemi di borsiti trocanteriche, che sono delle patologie laterali sull'anca, può esacerbare sintomo. Chi ha un problema dell'articolazione acromio-clavicolare della spalla, dormendo di lato può avere maggior dolore. Dormendo con il braccio sopra la testa, come spesso capita dormendo in posizione prona, può peggiorare patologie della spalla, sintomi della patologia della spalla, o far emergere sindromi del regresso toracico. Questo dormendo di lato con alcune patologie, ma dormire di lato invece può essere utilissimo se il paziente ha una radicolopatia lombare o un aumento di volume del cavo poplite del ginocchio. Quindi non c'è una posizione ideale per tutte le situazioni. E questo riguarda chi ha patologie note. Mm-hmm. Nel sano andrei in base alla comodità e alle abitudini personali. Andiamo adesso. E mi perdoni, anche non soltanto patologie di nostra competenza, tipo quelle osteoarticolari, ma anche in base a patologie vascolari, gastroesofagee, cardiorespiratorie. E insomma ci sono tanti elementi da tenere in considerazione. Allora cominciamo un po' con le questioni che ci sottopongono gli amici che ci seguono da casa, che ci chiamano all'800240024. Inauguriamo con Rina questa parte della nostra trasmissione dalla provincia di Vicenza. Rina, benvenuta, buon anno anche a lei. Altrettanto, grazie. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Volevo chiedere al professore, ho una certa età e ho sempre conservato i materassi che avevano i nonni. Quelli di cui parlavamo prima. Di lana. Sì, che si rifacevano a mano, peraltro, no? E molto spesso anche noi nipoti eravamo impegnati in questo lavoro per dipanare appunto la lana. Ecco, ogni anno facciamo questo lavoro, li teniamo bene. Mi sembra di dormire bene, perché quando andiamo in vacanza che dormiamo nei materassi a molle, così in giro stiamo malissimo, non riusciamo a dormire bene. Volevo sentire il professore se ci sono delle controindicazioni. Ma mi sembra che il suo corpo parli con grande chiarezza, Rina, no, professor Ponteggia? Sì, praticamente ci ha confermato sulla base del buon senso e dell'esperienza quello che dicevamo nella prima parte del programma. Al di là di quelle che possono essere le caratteristiche diciamo igieniche della durata e della conservazione, il fatto che la signora riposa così bene su quel materasso non porta a cambiare le caratteristiche. Infatti. Squadra che vince non si cambia. Oh, bravissimo, come ci piace quest'ultimo messaggio finale. Allora, lana, molle, lattice. Cristiano da Prato ci scrive: vogliamo proprio quest'anno comprare il materasso nuovo, ma i miei dubbi sono lattice o no, qual è il prezzo giusto per un materasso? Anche qua non voglio far sbilanciare il professor Ponteggia, perché anche lì lui dice insomma su internet trovo di tutto, quindi ci fa l'aspetto di denari sul quale magari Cristiano proverò a documentarmi, ma il tema è: mi preoccupa soprattutto la schiena. Allora, secondo lei le due domande da fare al materasso che proviamo, professor Ponteggia, quali sono? Diamo un'indicazione subito pratica al nostro amico da Prato. Sì, intanto partire da come lui dormiva sul materasso attuale, cioè da come lui si svegliava sul materasso attuale, e a quel punto sottoporre le caratteristiche del materasso attuale a personale competente, nel senso che se lui si sveglia bene, riposa bene su quello che ha adesso, lo sostituirei, se è ora di sostituirlo, con un materasso con caratteristiche analoghe, altrimenti per scegliere il nuovo vi consiglio di dormire qualche giorno su altri materassi. Certo, Cristiano, quindi deve farsi un po' adottare da qualche negozio, da qualche commerciante, far provare. Detto questo, adesso a parte lo scherzo e il folklore, magari, che ne so, qualche familiare che ha un materasso diverso rispetto al suo faccia una prova, tanto bisogna provare, come facciamo per tanti articoli commerciali. Luciano da Bari, buongiorno. Qualche chiletto in più, lei dice, insomma, dove vado a dormire? Allora, faccio una premessa, io peso circa 120 kg, sono un po' più di 1,80 e dormo su un materasso ortopedico rigido. Sì. Ora, volendo cambiare il materasso, io molto spesso mi ritrovo la notte che dormo di lato, con magari mi sveglio perché ho il braccio addormentato, quindi anche irosato, oppure ho problemi anche qualche volta di reflusso gastrico quando dormo a pancia sotto. Ora, mi chiedo, potrei migliorare con un memory piuttosto che un altro tipo di materasso, di quelli in lattice, allora, oppure mi conviene rimanere sulle molle con un materasso rigido? Grazie Luciano. Allora, professor Ponteggia, questo è un caso per lei. Adesso, a prescindere dalla tipologia commerciale specifica appunto indicata da Luciano, per la sua tipologia anche corporea, un po' impegnativa. No, no, molto interessante, perché ha segnalato, io isolerei tre caratteristiche: il suo peso, la problematica gastroesofagea e le parestesie, cioè l'addormentamento al braccio. Allora, per quanto riguarda il problema dell'arto superiore, il materasso c'entra poco, c'entra soprattutto la posizione della testa, se dipende da un problema di una radicolopatia cervicale, altrimenti andrà fatta una diagnosi differenziale. Certo. Per quanto riguarda il suo peso, è quello che abbiamo detto prima, serve un materasso che accolga il corpo senza farlo sprofondare o farlo respingere, questo in relazione al peso del paziente, quindi sarà un materasso magari di una rigidità superiore rispetto a quella di persone con peso inferiore, ma che a lui vada bene, questo è proprio da persona competente. Il reflusso gastroesofageo è importantissimo, non tanto la tipologia del materasso, ma l'allineamento della rete. Certamente, e quindi al nostro ascoltatore di Bari appunto indirizziamo questi consigli. Allora, avevamo promesso prima che naturalmente avremmo parlato anche di lui, del cuscino. Lo facciamo grazie alla domanda di Marisa dalla provincia di Pavia. Marisa, pronto? Buongiorno, sì, Marisa, pronto. Benvenuta, buon anno. Sì? Buon anno, grazie, mi sente? La sentiamo. Io ho 80 anni, ma non ricordo da quando ho cominciato a dormire senza cuscino. Cercavo di farlo anche con mio figlio, ma mia madre glielo metteva di nascosto. Quindi adesso mio figlio dorme queste con nonne, queste nonne sempre che si devono... Come la maglia, io non gli mettevo la maglia di lana e lei gliela infilava. Vabbè, insomma, comunque, quindi niente. Adesso mio figlio, che ne ha 38, dorme con quasi tre cuscini. Ah, proprio la legge del contrappasso, insomma, di fronte ad una mamma che non lo vuole, dice io ne metto tre, proprio in opposizione. Dice che fa freddo, ma beh, lui vive a Berlino, ma la moglie anche. Come faranno non si sa. Marisa, grazie. Allora, professor Ponteggia, gliela metto in mano allora questa storia di Marisa: tra chi dorme senza e chi dorme con tre, come al solito la via di mezzo immagino vinca. Detto questo, anche qua l'utilizzo del cuscino è una scelta di carattere puramente personale, oppure a lungo andare anche una, come dire, una condizione che apparentemente ci fa stare molto bene. Marisa dorme senza, io per esempio non potrei neanche immaginarlo, ma dipende dalla questione personale, se sta bene va bene così, oppure è bene che ponga un pochino un rimedio e qualcosa sotto il collo lo metta. Ma è personale, nel senso che il nostro corpo in genere ci parla, cioè a noi sembra sia personale, ma in realtà è il corpo che ci trasmette dei messaggi, ci dice se è corretto quello che facciamo o no, attraverso l'insorgenza o meno di sintomi o scomodità. Non è soltanto il dormire con o senza, ma bisogna capire in quale posizione si dorme, perché dormendo a pancia in giù, cioè in posizione prona, si può usare un cuscino molto, molto basso o addirittura nulla, anche se è una posizione non tanto, diciamo, sopportata da chi ha cervicalgia. mentre dormendo supini o di lato il senza cuscino in genere non è indicato, ma c'è una regola molto semplice, soprattutto dormendo supini, cioè praticamente la testa non deve né essere china in avanti, certo, né cadere all'indietro, deve essere allineata. Questo però vale in presenza di curve fisiologiche della colonna, cioè di una lordosi cervicale, che chiaro, è la curva fisiologica normale. Se ci sono curve alterate, queste altezze vanno correlate all'alterazione delle curve. Allora, prima di chiudere, abbiamo chiesto, professor Ponteggio, ai nostri ascoltatori di indicarci qual è la temperatura che hanno nella loro abitazione, in modo particolare, dato l'approfondimento di cuore che stiamo facendo, materasso e cuscino, che temperatura avete in camera da letto o qual è quella che magari vorreste avere e il vostro compagno non vi consente di tenere. Molti di voi ci hanno scritto 20, 21, 19, 18, insomma il range è questo. Sentiamo cosa ne pensa il nostro esperto, il professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale Sima Onlus. Buongiorno professor Miani, buon anno anche a lei naturalmente. Buon anno a lei Deborah e buongiorno ai suoi ascoltatori. Allora, a seconda delle temperature abbiamo dato delle cifre, ma non tanto in libertà, perché sono più o meno queste le temperature indicate. Professore, promossi o bocciati i nostri ascoltatori? No, sono assolutamente promossi. Il fattore temperatura in casa è importante, ma è altrettanto importante un bilanciamento con una corretta umidità, perché lo stesso che noi proviamo all'esterno, pensiamo ai mesi estivi, il cosiddetto calore percepito, temperatura percepita, è dovuta al tasso di umidità, e lo stesso avviene all'interno delle nostre abitazioni e nelle nostre abitazioni nei diversi ambienti, certo, delle abitazioni, e poi in base anche all'età di chi abita questi ambienti. E quindi pensiamo per esempio alla cucina, dove ci sono dei tassi di umidità che sono tendenzialmente più alti, bisognerebbe cercare di tenere una temperatura un pochettino più bassa, intorno ai 19 gradi, magari anche un pochettino meno se si stanno facendo anche lavori domestici, pulizie, comunque una specie di ginnastica muscolare comunque, no? E per quanto riguarda invece anziani, bambini, piuttosto che persone allettate, è meglio stare su un'umidità relativa che va tra i 40 e il 60% e con una temperatura che sta tra i 18 e i 20 gradi. Poi adesso sappiamo che per legge impongono i 19 gradi ai termostati, sì, ma nei fatti è la temperatura ideale di casa, i 19 gradi, poi è difficile mantenerla in maniera perfetta, anche infatti, perché bisogna ogni tanto arieggiare, bisogna cambiare l'aria in casa. Per me che sono lucertolona, professor Miani, e che amo proprio dormire con il calduccio, qua forse sarà, secondo me, la temperatura a casa mia un po' più alta. Ma guardi, proprio, c'è un adagio popolare che dice mangia al caldo e dormi al freddo, e nei fatti ha un fondamento assolutamente, certo, scientifico. E soprattutto per quanto riguarda il sonno, l'ideale è avere una temperatura esterna sotto le coperte, è un'altra cosa, possiamo usare anche dei piumoni caldi, eccolo là, che parlavate di materassi, cucini e corredi vari, ma l'ambiente esterno più è fresco meglio si dorme. Benissimo, ci ritorneremo professor Miani, purtroppo devo chiudere, ma guardi, Nicoletta sarà ben contenta di tornare su questi argomenti che sono sempre molto apprezzati dai nostri ascoltatori. Intanto grazie al professor Alessandro Miani e al professor Fabrizio Ponteggia. Cuore e Denari anche oggi termina qui, naturalmente dormite bene, noi intanto ci risentiamo stasera a Focus Economia.